cosa è successo? Non da poco, da molto questa storia qua. No, è successo l'anno scorso. Ah, allegria. Ma lei si è notato bene, guarda, in questi ultimi anni, diciamo, questo maltempo non è più leggero come se ti ricordi prima, adesso sono, durano forse una settimana molto violenti, è notato, sta cambiando molto il tempo, non è più regolare come prima. Poi specialmente diciamo a dicembre, tutta questa pioggia, che lei non è tempo a farla per nel periodo di febbraio-marzo, sembra che abbia anticipato buono buono di 3-4 mesi a questo tempo. Così è, adesso non c'è più stagione, no? E non è notato tutte le cose che succedono, terremoti, catastrofi, tutte quelle ruzzame, come si chiama, che aveva su tutto, così non c'è, ma ancora si sta ribellando di brutto contro l'uomo. Ma sicuramente quello è poco ma sicuro, è l'uomo che non la sa puttare, rispettare, e queste qua sono le conseguenze. Due giorni fa, secondo il televisore, mi hanno fatto vedere che in Giappone non potevi uscire perché c'era una, diciamo, qualche volta la città era completamente annebbiata, ma non era nebbia naturale, era smog. Guarda che è una cosa incredibile, dunque le persone anziane, le persone malate dovevano stare chiuse in casa perché non potevi uscire, e chi usciva con la maschera, perché non facevi altro che respirare scarica dietro a manca, ma talmente erano tanti, che ti giuro non vedevi, a 5 metri non vedevi più niente da quanto era scuro la situazione. Per dirti, cosa pretendi? Arrivato a un certo punto, la colpa è nostra. Adesso purtroppo la natura si è ribellata perché l'uomo ha creato inquinamento eccetera eccetera, quindi piano piano si sta ribellando. Avanti Luca, se ci sei. Quindi se c'è qualcuno che vuole entrare, canale 5, avanti. Bravo, è entrato Capri 2. Sì, che c'era poco fa, è entrato sul 12, poi stava parlando con Pinocchetto, non so come. C'era la volta nostra, lui è entrato e si è messo a parlare, e sottofondo sentiva lui con questo baracchino, non so dove l'ha beccato. A chi è Capri? È all'ombra. Minchia, quanto ne sta prendendo, dove non lo sparo, guarda, vedete la casa sua, qualcuno glielo rubo, Boh. Cappa. O gliel'hanno regalato, insomma, non lo so, comunque è un baracchinetto. Vede sempre, mi sa che ha sostituito a Claudio, ormai si è arreso, invece lui sta continuando a collezionare. E si vede che gli piacciono. Doveva andare in qualche posto dove ci sono, tipo, aspetta, in Olanda ci sono dei mercatini dell'usato, dove ci sono baracchini a gogo. Non so, peccato qua non ce n'è, che ormai qui la situazione è morta, ma però ho visto che in altra parte dell'Italia, guardando i forum lì su internet e associazioni CD, ce ne sono molte che funzionano neanche bene, devo dire, e fanno un sacco di servizi, oltretutto usando il CD. Qua invece, per carità, comunque, già abbiamo la nostra piccola feticciola in Piazza d'Italia. Guarda, vabbè, speriamo che riesca. Sì, vai tranquillo, un piano piano, se alla fine senza fretta, così non facciamo cose. Dai, a tagate cane come tirare in salto, io penso che si fa, che ci sia la Puglia. Per me, io sono disponibilissimo, senza nessun problema. Ecco, per il momento, Antonio. Aspetta un attimo, forse c'è qualcun altro di altri canali, aspetta. E sul 23 c'è, come si chiama, quel Gianni di Ittiri e Pinocchetto su canale 23. Infatti li sentivo di sblattero. Il 23? Sì, non c'è Capri 2, questo su canale 23. Siccome è abbastanza sensibile il 68, io basta un minimo rumorino, so che c'è qualcuno altro in altri canali, dunque non mi sfugge nulla. L'apparato spia. Davvero mi guarda, tu sei sul 20, io ti sento, io sono sull'1 e ti sento. Sento dei minimi, attento, c'è qualcuno, sono sul 23. Andiamo a rompere le scatole sul 23. Antone, Io me ne vado tutta l'anno, mi sta sopra. Sono un po' stanchino stasera, sono uscito. Non sta uscendo molto bene con quel microfono, Con questo? Sembri che strappi leggermente. No, guarda, non sta strappando niente qua. Forse ero troppo vicino, va meglio così? Sì, adesso sì, adesso va benissimo. Perché stavo parlando addosso, Antonio, scusami, anzi, io volevo dire scusa perché quando gli parli sopra, ma quella è così dovrebbe andare bene. Adesso sì, rimaneva piccoli trappetti strani appannato, ma perfetto, perfetto, sta riuscendo. Sicuramente avevi qualcosa da regalare. No, io ero troppo addosso. Tutto lì. No, siccome questo ha una bella. Un microfono dinamico, non c'è niente. Capito? Lui che pompa, proprio l'apparato. Vai, più che bene. E la Puglia, ma cos'è qualcosa che stai riparando per prova? No, no, il pace, il 166, quello che uso sempre. Io solo cambio il trasduttore e basta. Io ho messo che ha un'enfatizzazione diversa, è più spinto, ho capito. Ma sempre dinamico, senza amplificatore, senza niente. Ma ti sembra amplificato? Sì, ma non c'è nulla, non c'è né amplificazione. Ti garantisco, non c'è niente. E lui, solo lui, è boh, collegata fino a là. Non c'è altro. Beh, se gli parli sopra è logico che non lo si trae mai bene, ma se gli parli alla distanza giusta, dal punto giusto, funziona correttamente, compreso. Però voglia, sei perfettissimo. Aspetta, se non sbaglio dovrebbe essere doppio room, ci sei Gianni? No, ancora non è passato. Ciao Pinocchio, buonasera, barracuda se mi copieggi. Adesso deve aumentare, qui c'è sempre, adesso per il momento sei Santiago 3, Radio 3. Poi quando c'è il Lutino sei un Santiago di 7 e Radio 5. Campi? Dammelo, controllo, Santiago 7 e Radio 5. No, è meglio, l'avete cambiato sul traduttore, guè. C'è la posizione che l'avete cambiata. Compresso. Dai, vado a metà mezzo. Stavo dicendo, Antonio, questo ha praticamente un magneto al neodimio. È un microfono che l'ho controllato appunto a magneti diversi, è una membrana diversa che è proprio molto particolare, guadagna molto bene, è per quello che è molto sensibile anche a te ancora. Infatti sento molta differenza. Ascolta, così mi è una curiosità, sempre se è fattibile, sai benissimo che i Midland, se li conosci bene, c'è un lavoro 68 AS che sto utilizzando adesso, c'hanno questo difettuccio che si attivano, diciamo, molti disturbi, ma è possibile mettere qualche filtro in questi apparati per la recezione, perché te la dia un pochettino più selettiva e pulita? C'è la possibilità? Certo che c'è. Ma perché dare il caffè all'asino? Un DSP ci vuole DSP. E costa? Aspetta, te lo dico subito. Guarda, te lo dico subito, lb.com. Ma penso che costi già 100 euro, Dimmi un caro, la savente, ma vabbè, il discorso metto dubbio che sia un baracchino, ma se c'era una possibilità, un tanto dispendioso, se ti fidi con 100 euro te ne compri un altro. No, perché se no a me piace come apparato, sono nato, diciamo, bene o male con i Midland, le prime modulazioni. Funziona benissimo, tranne questo piccolo difetto, che non è poco. Sai, io meno male ero sul 5, sentivo dei piccoli disturbi, questi disturbi so già che sono piccoli sblatteri, e dunque ho girato e ho trovato a voi, ecco, per cui diciamo questo difettuccio, ma se è così caro rimane così. Ma guarda, ti posso garantire che non conviene neanche mettergli nulla, cambia apparato direttamente, fai prima. Lo so, ma il discorso è sempre quello. Vabbè, c'è il Galaxy Saturn che tranquillo è abbastanza selettivo e pulito come ricezione. Solo che in commercio cos'altro adesso come adesso? Mondezza. Bisogna trovare qualcosa di un pochettino più vecchiotto, è buono allo stesso tempo, e ha fatto bingo. Tutto lì anche un 23 canali, perché per umano all'epoca, secondo, si fa una piccola ricerca, un vecchio apparato che forse sono meglio di quelli che stanno costruendo adesso. Magari che trovando, non stai trovando noccioline, no? Ascolta una cosa, che hanno fatto allora anche di cose con poca tecnica, magari buone ma con poca tecnica, quindi dovresti trovare un apparato con la via di mezzo, un sintetizzatore digitale, anche con, ci sono anche 40 canali ottimi, più ottimi, ci sono le varie marche, c'erano i Ranger che erano molto buoni come apparati, poi non hanno fatto più. Cobra, bellissimi quegli apparati, stupendi, molto stabili, sentivano una bomba con modulatori che spaccavano la faccia, ma non lo trovi così facile. Ascolta, adesso non so se tu sei un pochettino aggiornato, io ho visto l'ultimo modello AMFM Cobra 29LX, che se volevo ordinarlo negli Stati Uniti, adesso l'hanno portato in Italia omologato. Non so se lo conosci questo apparato, cosa ne pensi se lo conosci? Ma no, allora, i commerciali sono comunque tutti quanti montati con componenti CSMD, non ne vale la pena, devi trovare un apparato diverso, una macchina più seria, che sia un apparato, non che sia bello, che sia un apparato, c'è una bella differenza. Da dice trasmettitore, trasmettitore, vero, a faccia di lice trasmettitore, c'è una bella differenza, cioè vale a dire che avere solamente l'apparenza di lice trasmettente è un conto, esserlo è un altro. Finalmente d'accordo, ma il discorso è sempre quello, giustamente a Televideci deve avere un apparato omologato, dunque gli omologati adesso, in questo momento, io ho visto che solamente sono scarti e basta, per come li ho visti io personalmente. Di cosa come intendi tu qua non ce n'è omologata. Se per forza trovare un apparato, sì, nuova generazione come dici tu, con dei componenti abbastanza selezionati, però non sono omologati. No, neanche omologati ce ne sono che funzionano bene su tutta Mondezza. Diciamocelo chiaro, non siamo lì a girarla, è Mondezza, punto e basta. Allora, gli apparati veri hanno una realizzazione diversa. A questo punto io ti consiglio una cosa, consiglio, allora, vuoi modulare veramente? Vuoi un apparato serio? Vuoi che scinda il suono dal rumore in mezzo al rumore atmosferici? Non valvolare. Trovati un 40 canali a valvole, trovati un Motorola a valvole ed è finita. Boh, non lo abbandoni più. Quelli sì che sono apparati. Trovalo. Se vuoi, oppure c'è qualcosa della Uniden a valvole, se trovi un 40 così, finito, giri appena appena il reserve gain, perché erano fatti così, non senti più rumori, né splatter, niente, guarda, ricezione, una telefonata, ho trovato io il Drake, il 4C, il TR4C da una linea amatoriale, e un apparato a valvole, so cosa fanno, ma ho sentito anche l'Uniden io a valvole, basta, lo vuoi proprio per modulare la casa, comprati quello. Lo so, hai ragione. Sì, la valvola, il suo non so che, già hai ragione, è vero, giustamente di vecchia generazione. Lo so, ora bisogna sacrificarsi uno per minimo, tra una cosa e l'altra, cioè buoni 400 euro di seconda mano. Però lo so, compri una volta, non compri più. E 400 euro ci vogliono. €400 non trovi, puoi trovarlo anche per $100 più la spedizione da 300, sono $200 tipo €150, non c'entra niente, capito? Trovarlo nel mercato estero, però lo puoi nel Regno Unito ad esempio, lo puoi trovare tranquillamente i valvolari di altissima qualità, fatti una ricerca su ebay.com e te lo truffi, ti garantisco che cambia da notte al giorno, non c'entra a fare. Questo per esperienza, perché conosco l'elettronica valvolare, l'elettronica trasistorizzata, e quindi non lascia stare. Anche la cuffia, Lo so. E tu il Pinocchio che è in parcheggio, cosa ne pensi? Sarai sul 23? No, io mi sono puntato di fascio. Cambia risoluzione, mi dice di non mi assolo la capsula. Il soffitto mi lo sarla se può. Mi lo sarla più, più no, non si è che punto. E mi lo sarla, se quello che un colore, boh, fa che se lo vai, che a sapere che non me la più bene. Avanti, prego. Prego. Avanti. Sì, buonasera a tutti, Luca da Porto Torres, cordiale di libertà, tutta la ruota. Non so chi c'è in ruota perché stavo chiedendo di fare un microfono. E lo sto provando. Buonasera a tutti, ciao, sempre Gianni, fai girare. È positivo, abbassalo, tu gli proprio con l'eco, se no non ti posso dare il controllo, non capisco neanche chi sei per poco. Gianni, ciao Giovanni, guarda adesso, no, ci sono la leggina, si è aumentata appena. E ok, aumenta ancora un altro pochino che non guasta. Ma dico la pubblicazione o l'eco? L'amplificazione, l'eco lascialo dov'è? Ok, aspetta un secondo che lo do a mettere indietro. Ok, va bene, fino. Aspetta, ciao Giovanni, ciao Giovanni, non so chi sia, Capri 2, Renato Giovanni, buonasera. Buonasera Capri, io qui mi stavo parlando con l'amico di Porto Torres, Pinuccio lì e Antonello Barracuda da Ussi, ti rimando Barracuda, avanti Barracuda. Beh Gianni, buonasera, lo sai che ho trovato il Capri 2? Ce l'ho a casa. Vai. No, scherzo. Thank you. contatto positivo al microfono, come mi stava dicendo Giovanni a me, dai, quindi vediamo un po' come mi ascoltate adesso. Bene, però puoi fare di più. Oh, ciao Luca, Gianni, guarda che evidentemente stasera avevi stazionaria, perché adesso stai uscendo completamente diverso, stai uscendo con un segnale, con una radio molto molto più forte. Di solito tu hai po' di sei un po' saturo a volte quando spingi troppo. Questa qua è perfetta, stai arrivando a fondo scala qua, è sì, perfetto di modulazione, perfetto di voce, perfetto di segnale. Se, come dici tu, ne vale la pena pulirlo e assolutamente metterlo, anzi utilizzarlo spesso. È rimasto Gianni ci si sì. Cattivo Gianluca, cattivo, riprendi i capi. Tira la tua la tua voce senza nessuna modifica, più perfetto di così, di cui, no, ma funziona veramente bene. E poi in sé come cassa è buona, solo il frontale è da riparare. Thank you. c'hai, diciamo, la passione e la voglia di affrontare anche una nuova esperienza, non c'è età per imparare, dunque, perché devi mettere queste paranoie. Se te la senti, piano piano inizi, poi giustamente, ascoltando anche loro, si impara anche da lì. Anzi, non mi sembra vero che entra qualcuno che inizi a spiegare un po' anche le basi, no, per questa nuova esperienza. E giustamente lo fanno ogni giorno, dunque alla fine si impara sempre già. Se c'è l'intenzione di affrontare, fallo, perché no? c'è tutta questa condensa, giustamente, è colpa della stufa a legna, sì, eppure alla fine la botola rimane nella parte più alta, giustamente benissimo quel calore da giù sale su. Ma porca accidente, dunque ti avrebbe dovuto rovinare, oltre a quello, tutti gli apparati che hai lì già. C'è poco da fare. I fili all'interno del trasformatore sono isolati, adesso qua, adesso in questo momento mi sto alzando, io ce l'ho acceso, se riesco a vedere e non ci vedo un cacchio. No, eccolo qua. Sì. Sì, bene, io sono invece il trasformatore con Bernardo all'interno. E non so, quei cavi sono isolati, al 100%, i filamenti lì sono isolati. Adesso mi ricordo c'è anche il modello BV130, quello già fu riproduzione da un po' di tempo, sempre la stessa grandezza del BV131, però questo qua è a transistor invece che valvolare, il BV130, non so, tu non l'hai conosciuto quello? Yeah. 5, Radio 5, 9:10, manca Fiago, la verità. Adesso lo so, Pinucci, se mi senti meglio adesso, migliorato adesso come segnale, sì. Allora, se stai arrivando bene, lei ha voglia, sei chiaro, chiaro, chiaro, chiaro. Fai la cortesia, ma dai un controllo di segnale. Allora, per non male, dai, se c'hai questa scala dovrei essere quasi su Santiago 9, dai, già va bene. Avanti, Capris. Thank you. possibilità. Mi sa che c'è una portante sottofondo, avanti, chi vuole entrare. Trudioni. Io Leoncino mi Santiago Novella 25, già se parlo convinto. Trudione, ciao Gianni, Capri 2, la vendetta. Capito? Perché io, quando a me mi fanno un regalo, io faccio di tutto per tenerlo in coso, in funzionante, le faccio la manutenzione, tutto quanto, cosa c'è da fare, tutto quanto, e mi fa piacere avere una radio che riesca a modulare seria, capito? Io uno e boh, no, non ne ho altre, basta, no, non mi interessa di accaparrarmi altri baracchini, perché non c'è il posto, non c'è il posto. Poi seconda cosa, non me ne faccio niente, quando c'è un baracchino e parli con tutti quanti, sei tranquillo, esci con 5 watt e nessuno ti deve rompere le scatole, punto e basta. A te la parola. La parola alla corte. Niente, Leoncini, quando c'è la passione, c'è la passione là, questo piccolo bit ti piace coltivarlo, avendo la possibilità, penso che piace a chiunque, sei collezionale, scegliere qualcosa che proprio ti interessa, anche questo per un hobby, giustamente, che ci vuole il denaro, perché accidente anche qua, e non poco, confrontate le cose, siamo in una via di mezzo, però c'è la possibilità e la passione, sei sempre alla ricerca di qualcosa là, che non si trova più e poi che ti piace alla fine, ecco. Io vendo soldi volentieri, non dico di avermi comprato tutto, però avrei scelto le cose proprio che veramente mi interessavano, ecco. Sì, vabbè, d'accordo con te, Antonio, d'accordo con te. Uno che ha la passione, che è amatore di questi radio, se ne organizza tutto, hai capito? Però uno che si prende un baracchino giusto per fare quattro chiacchiere, cosa se ne fa? Sì, cosa mi dici? Cosa fai? Prendi un ricevitore per sentire gli altri parlare? A cosa te l'hai preso a fare se non riesci? Non parli, perché tanto non parli, con quello là, con il portante, quello del VHF, non puoi parlare perché non c'è né concessione né niente, e cosa lo prendi a fare? Solo per ascoltare, per radioascolto, ma io preferisco prendere un baracchino e parlare con tutti, io sono amico di tutti e non ho mai litigato con nessuno, punto, e basta, a te la parola. Allora, beh, quel discorso di ricevitore è bello radioascolto, giustamente ognuno ha le sue idee, a me piace ascoltare, perché no? Giustamente discorsi completamente diversi che utilizziamo qua ogni giorno nella 27, lì sono tutta un'altra minestra, e qui c'è da imparare, sinceramente, confronto alla 27, perché c'è molta più tecnica e sono cose belle, e qui alla fine cose tecniche, poi più di tanto non puoi ce la mandare, dunque, sai, per tagliare un po' anche la monotonia, preferisco a fare ogni tanto la tua ascolto, perché non è sempre, alla fine, questione di gusti. A te, Capris. Faccio un attimino di bianco che porto il cane a fare pipì e arrivo subito. E vabbè, Antonio, io ti saluto e ti auguro una buonanotte. Ciao Gianni, Capri 2, non te la prendere, sta tranquillo che io non ce l'ho con nessuno. Giusto, volevo solo precisare la questione, punto e basta. Ti auguro una buonanotte, una buona giornata per domani. Ci sentiamo presto, dai, corretti per me, ciao ciao, buonanotte a tutti, a tutti quanti, ai componenti del canale 23, ciao ciao, buonanotte. Buonanotte, siamo sul canale 5, non sul 23. Canale 5. E allora, canale 23, siamo nel canale 5. Ah, scusa, cosa ti sta segnando a te, Leoncini? Qua chiuso, canale 5, ma canale 23, siamo sul 5 già, vabbè, ci sentiamo dopo. cercato sul 5. Ecco, ho cercato sul 5 ma non ce l'abbate. Ah, ecco perché. Ma segnale com'è già, per favore, dammi un piccolo controllo. Va bene, dai, grazie già. Riprendi con Pinocchio il Moro, salutamo da parte mia. Dille una 30 di paletta 5, 7351, ho già.